Arrivo dalla nebbia, dallo smog, come la nave di The Fog, legata alla strada, perché in strada che ancora sto, se ce l'ho fatta qui, posso farcela dovunque come Frank e Jay-Z, lo slang dei miei G, dice Mogra, Nogra, Sesse, per questa city sono il Poca, l'Efe, l'Esse, ho una Madonna d'oro al collo e una Madonna d'oro in cielo, viviamo sopra il limite, moriamo sotto un telo, Dio regalami del tempo, invece di un solo tempo, torno e caccio gli infami, via come Gesù dal tempio, Glock nei calzoni, alzano il murder rate, props dai furgoni, i frate mi gridano minchia Jake, ognuno fa la sua parte in questo film tra i palazzi, da sempre intrappolati nel traffico con un taxi, pezzi da 100, benzina verde per i ragazzi, Milano mi perdoni o mi ammazzi, decidi. Questa notte che non c'è niente di strano, appena mai, infame non sarò mai, codice samurai, non riesco a far rimanere chi davvero mi vuole bene, le vie della città dentro me sono le mie vene, ogni parola è un colpo di pistola, come subsonica, tu fai brutta figura, la mia figura è retorica, fai il test su queste strade e poi ti bocciano all'esame, i corpi dei poeti sono a terra esanimi, generazione apatica, se la musica è plastica, Milano che ti sputa dopo che ti mastica. Girano le ruote di sto macchinone, resto in danger zone, sul GPS non c'è la via del signore, i miei versi troppo veri voglio dedicarli a chi ha solo sogni infranti e non sa interpretarli, a chi sta cercando i santi e non sa interpellarli, io lo so ma io non so se tu sai di che parli. Questa notte che sempre, se il cielo è così vicino, di colpo cade sopra la città, sole a Milano, in cerca di chi, come noi da qui non se ne andrà mai, ciò che vuoi da qui non se ne andrà mai, resta qui con chi ci crede, questa notte che non c'è niente di strano, di noi non rimane niente, soli a me.